Cari amici, continuiamo la lettura della Bibbia. Mentre mi preparo e la leggo per voi, sembra quasi di star facendo una storia a puntate, ma in parte anche lo è. Vedrete oggi, la puntata di oggi, Davide, è raccontata come un racconto, come una narrazione, che qui siamo al capitolo 17 del primo libro di Samuele. Viene riportato non tutto il testo, ma a leggerlo tutto sembra proprio un racconto, ma non per bambini, un racconto per tutti. E forse questo dovrebbe abituarci a imparare a conoscere la storia della salvezza, la storia, il racconto, come dei fatti avvenuti. Allora siamo a Davide, abbiamo visto il primo capitolo, cioè la prima parte, Samuele, in sua mamma Anna, Saul, Davide, siamo al capitolo 17, il famoso incontro-scontro con il famoso Golia, il gigante dei Filistei. Alto 6 cubiti e un palmo, adesso io non mi ricordo più le misure, ma dovrebbe essere più di 3 metri. Immaginate cosa vuol dire avere davanti un uomo, non è un uomo, è una montagna. E tutti sono spaventati. Lui propone: ci sfidiamo uno contro uno, ma questo non era uno contro uno. Chi vince ha vinto la battaglia. Il popolo di Israele è terrorizzato. Allora si fa avanti Davide e dice: andrò io a combattere questo filisteo. E Saul gli dice: ma va là, tu sei un ragazzino, questo è un uomo d'armi fin dalla sua adolescenza. E Davide invece porta le sue credenziali dicendo: fin da quando era piccolo pastore ha affrontato un orso, un leone, che cercavano di così tranquillamente li ha spaccati a metà. Fa un po' ridere, ma. E poi aggiunge una frase che è importante, che dà il tono a tutto: il Signore, che mi ha liberato dalle unghie del leone e dalle unghie dell'orso, mi libererà anche dalle mani di questo filisteo. Ecco, la grandezza di Davide sta proprio questa. E in generale nei personaggi della Bibbia che sono di Dio, ho in mente Giuseppe l'ebreo, venduto dai suoi fratelli in Egitto. Quante volte si dice che le cose gli riuscivano perché il Signore era con lui. E anche di Davide si dice così: e lo spirito del Signore fu su di lui, e il Signore era con lui, il Signore mi ha liberato e mi libererà anche da questo. Mi viene da dire: o Signore, fa che anch'io abbia questa facilità di memoria e di fronte a quegli avvenimenti che sembrano sovrastarmi, dica: o Signore, confido in te. Queste sarebbero le famose giaculatorie, no? Cioè preghiere veloci come una freccia, iaculum in latino, giaculatoria, preghiere, invocazioni veloci come una freccia che raggiungono il cuore di Dio e sono una preghiera. Poi vediamo che Davide prende in mano la sua fionda e prende dei sassi, 5 ciottoli lisci dal torrente, li mette nella sua sacca e va avanti verso questo filisteo, il quale lo sfotte. Ma tu c'hai un bastone, sono mica un cane per venirmi a bastonare. E lo maledice Davide, maledice nel nome dei suoi dèi, e Davide a sua volta lo attacca e gli dice: e tu vieni a me con la spada, la lancia e l'asta, un'altra lancia. Io vengo a te nel nome del Signore degli eserciti, Dio delle schiere di Israele, che tu hai sfidato. In questo stesso giorno il Signore ti farà cadere nelle mie mani. Ancora quello che dicevo prima: avere fiducia nel Signore. prende una pietra dalla sua sacca, la inserisce nella fionda, fa girare la fionda. Avete presente quelle fionde dell'antichità, no? Poi molla un'estremità, dopo l'abilità era tutta lì. Il sasso lanciato con maestria colpisce proprio sulla fronte quest'uomo. E addirittura qui dice che si conficca nella fronte. Probabilmente era un uomo così grande, grosso, anche robusto, anche in carne, diciamo, che il sasso lo colpisce, resta dentro nella fronte, lo atterra, poi lui gli va incontro, gli estrae la spada e gli taglia la testa. Ecco, io concluderei questo con un invito a me, con un invito a voi stessi, che è il salmo responsoriale. Dio è per noi rifugio e forza. Ci sono tante invocazioni simili nei salmi. Il Signore è mia luce e mia salvezza, chi temerò? Il Signore è difesa della mia vita, di chi avrò paura? Dio è per noi rifugio e forza. È il mio scudo in cui confido. Egli sottomette i popoli al mio giogo. Cari amici, quando ci capitasse di essere un po' giù di giro, prendiamo in mano un pezzo di carta. Segniamo giù tutte le cose belle che Dio ci ha regalato nella vita. Qualcuno che l'ha fatto, ascoltando il mio suggerimento, è rimasto sorpreso, cominciando da piccolino, segnando tutte le cose che Dio ha operato, ha detto: ma tutta la mia vita è un capolavoro. Auguri.